tempo si cantavano canzoni tanto belle, ma però, si somigliavano tutte, ti sembravano sempre quelle, io lo so, e perciò abbasso la luna, le stelle ed il mar, io voglio tutto cambiar, ma il cuore, oh signori, cambiar non si può, e ve lo proverò. Guarda un po', guarda un po', come buffo il nostro cuor quando chiede l'amor. Va su e giù, va giù e su, ti par quasi di svenir, i tuoi pali due travanti vieni sempre sulle stanche di morir. Ah, ah, cari signor, ah, ah, questo è l'amor. Guarda un po', guarda un po', come buffo il nostro cuor, ride, piange, si addormenta, come pazzo si lamenta per l'amore. Vuol baciar e non lo sa dir, vuol sognar e non può dormir, chi lo sa dir?